Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale del cacciatore di libri. In tanti in questo periodo ci state un po' chiedendo di dare dei consigli di lettura, visto che volenti o nolenti siamo più in casa. Del resto in questo periodo infatti si stanno moltiplicando le iniziative sui social, appunto per dare consigli su libri da leggere, e allora lo facciamo anche noi. Abbiamo scelto libri nuovi, ma anche romanzi che magari avete già in casa e fino ad ora non avete letto. Diciamo che per quanto riguarda le uscite più recenti, ovviamente ricordiamo che le librerie sono chiuse, ma è possibile sempre ordinare sia i libri cartacei che gli ebook online. Inoltre, in diverse città alcune librerie stanno effettuando consegne a domicilio. Diciamo che bisogna cercare online che cosa accade nella propria città. Infine vi segnalo anche un'altra possibilità, cioè quella di realizzare una piccola biblioteca di condominio, una sorta di book crossing condominiale. Diciamo che di queste iniziative ne esistono già un po'. Basta sistemare nel portone del palazzo alcuni libri, mettere un cartello in cui spiegate di che cosa si tratta, e così tutti i condomini possono scambiarsi liberamente i libri senza venire naturalmente in contatto l'uno con l'altro. Insomma, qualche possibilità per leggere c'è. Bisogna industriarsi un po'. E allora partiamo con una carrellata di romanzi consigliati, ad iniziare da romanzi ambientati nel passato e che riportano alla ribalta fatti storici a volte dimenticati. Il primo è sicuramente Il treno dei bambini di Viola Ardone, pubblicato da Einaudi, un romanzo di una scrittrice esordiente che comunque ha avuto veramente un grande successo e ancora nella classifica dei 20 romanzi italiani più letti. Questo libro porta alla luce un fenomeno della storia italiana poco noto. Nel secondo dopoguerra, il Partito Comunista organizzava dei viaggi per portare i bambini poveri del Sud Italia nelle famiglie del Nord per alcuni mesi. Diciamo che in questo modo i bambini potevano andare a scuola ed essere nutriti adeguatamente. Viola Ardone prende spunto da questo fatto storico per raccontare la storia di Amerigo, 7 anni, personaggio di fantasia, che nel 1946 insieme ad altri bambini prende da Napoli uno di questi treni diretti al nord. Amerigo finisce a Modena e qui, insieme alla famiglia temporanea, definiamola così, scopre un nuovo modo di vivere e anche la possibilità di seguire le sue passioni, come per esempio la musica. La parola a Viola Ardone. Erano degli affidi temporanei concordati tra le famiglie che mandavano i loro bambini al nord e le famiglie che li accoglievano, e il periodo di permanenza nella famiglia di accoglienza variava dai 6 mesi o anche di più, un anno. In alcuni casi i bambini ritornavano più di una volta, insomma si creavano, sai, dei legami affettivi forti. E allora vediamo Amerigo, appunto 7 anni. È di una famiglia poverissima, sostanzialmente ha solo la madre che è anche analfabeta, in condizioni insomma economiche abbastanza disastrate, vivono a Napoli e la madre decide, anche con qualche preoccupazione lo diciamo, comunque di affidarlo appunto a queste donne del Partito Comunista che organizzano questi viaggi. Qual è il sentimento appunto della madre di Amerigo e di Amerigo stesso? È proprio quello che ho cercato di indovinare scrivendo questa storia. Questa storia mi è servita per dare una risposta a questa domanda. Immagino che per queste donne che affidavano i loro figli a questi viaggi, insomma, il sentimento fosse davvero quello di dover affrontare una decisione molto difficile che noi forse oggi non riusciamo a immaginare. Forse è una cosa che ci possono descrivere solo le donne che dall'altra parte del mare, del Mediterraneo, affidano i loro figli su delle barche e li affidano un po' alla sorte. Ecco, questo è il sentimento che io riesco a immaginare per loro. Un altro romanzo che porta alla luce un fatto storico dimenticato è I bambini di Svevia di Romina Casagrande, pubblicato da Garzanti. I cosiddetti bambini di Svevia erano bambini dai 5 ai 14 anni, figli di famiglie povere dell'Alto Adige, che ogni anno venivano mandati a lavorare nelle fattorie della Baviera. Venivano quasi venduti nei mercati del bestiame alle famiglie contadine per poi tornare a casa, diciamo, dopo alcuni mesi. A volte però capitava che qualcuno non riusciva più a tornare. A volte le bambine tornavano incinte. Alcuni venivano ridotti quasi in stato di schiavitù. Un fenomeno iniziato nel Settecento e che è andato avanti fino alla metà del Novecento. Romina Casagrande racconta questi avvenimenti attraverso il personaggio di Edna, che, ormai anziana, decide di ripercorrere quella strada con il suo fedele pappagallo Emil per ritrovare Jacob, il bambino che le aveva fatto compagnia in una delle fattorie. Romina Casagrande. I bambini di Svevia erano bambini che, appunto, come dici tu, per 3 secoli hanno attraversato le montagne, quindi partendo dalle valli dell'Alto Adige, in particolare dalla Val Venosta, per arrivare nelle fattorie della Svevia, quindi queste fattorie molto ricche, passando attraverso i mercati del bestiame, dove loro di fatto venivano venduti. Il fenomeno ha una durata cronologica davvero impressionante e un areale geografico di diffusione altrettanto impressionante, perché venivano coinvolti non soltanto bambini italiani, ma anche bambini dalla Svizzera, dall'Austria, che si ritrovavano poi in queste fattorie in condizioni a volte davvero, davvero terribili. Tu hai deciso di raccontare questa storia attraverso un personaggio specifico di fantasia. È una donna, Edna, noi la vediamo ormai anziana, che un giorno, sostanzialmente sfogliando un giornale, vede la foto e comunque, insomma, la notizia di un uomo che è stato travolto da una valanga di fango. Quando legge il nome rimane, come dire, molto molto colpita, perché si tratta di Jacob. Jacob era il bambino che l'aveva accompagnata in questo viaggio folle verso, appunto, le fattorie della Baviera, ed era un bambino con il quale lei aveva intracciato un rapporto veramente profondissimo. Si erano aiutati a vicenda. Sì, naturalmente nelle fattorie poi si creava questa comunità di bambini, anche se era molto difficile, perché le testimonianze a cui ho potuto accedere, insomma, raccontano di situazioni anche di straniamento. I bambini non sentivano mai perfettamente integrati nella realtà in cui venivano inseriti. Provavano innanzitutto una grandissima nostalgia di casa. Loro partivano da situazioni, da famiglie estremamente povere e molto numerose, paradossalmente, quindi si trattava di in qualche modo anche salvare questi bambini dando loro da mangiare, ma nonostante questo erano alla completa mercé per questi mesi dei contadini che facevano quello che volevano. Romanzi ambientati nel passato, vi consiglio anche l'ultimo della giornalista Ritanna Armeni. Si intitola Mara ed è pubblicato da Ponti alle Grazie. Racconta la storia di una ragazzina, Mara, che ha 13 anni nel 1933, quindi siamo dunque in pieno regime fascista. Abita a Roma, ha un'amica molto cara che si chiama Nadia, che è una fascista convinta. Mara è affascinata dalla figura del Duce, viene trascinata dalla sua amica a vedere Mussolini che si affaccia al balcone di Piazza Venezia. Insieme ascoltano i suoi discorsi alla radio. Ecco, questo romanzo mi è piaciuto perché, diciamo, che entra proprio nella testa di questa ragazzina e fa comprendere come un adolescente negli anni 30 vivesse quel momento politico. Non c'è alcun giudizio da parte dell'autrice, c'è appunto la narrazione, la storia. L'altra cosa interessante è che i capitoli di pura fiction sono intervallati da pagine con pagine, diciamo, più saggistiche, in cui Ritanna Armeni racconta, appunto da giornalista, che cosa accadeva in quel periodo, con un focus particolare sulla condizione delle donne durante il fascismo. Il lettore dunque segue la storia e i pensieri di Mara fino a quando le sue convinzioni iniziano ad incrinarsi, soprattutto a causa delle leggi razziali del 38, perché Mara vede l'effetto che hanno sui suoi vicini di casa, i Piperno, che per lei e la sua famiglia sono amici, mentre improvvisamente realizza che il regime di Mussolini li discrimina e li perseguita. Il libro dunque Mara, scritto da Ritanna Armeni, pubblicato da Ponti alle Grazie. E visto che siamo in tema storico, un romanzo sicuramente da leggere, o magari anche da rileggere, che possiamo avere nella nostra libreria di casa e abbiamo colpevolmente ignorato fino a questo momento, è La storia di Elsa Morante. È veramente un pilastro della letteratura italiana del Novecento. È un romanzo ambientato fra la Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra. Racconta la storia di Ida, una donna calabrese che vive a Roma. Lei nasconde di essere ebrea proprio per paura, naturalmente, dei fascisti. Il marito muore e lei resta sola con il figlio Nino. Una sera Ida viene violentata da un soldato tedesco e resta incinta. Così nasce Useppe. Giuseppe. Fra Nino e Giuseppe si crea un legame molto forte. Il romanzo poi prosegue raccontando la vita in tempo di guerra, i bombardamenti, la vita da sfollati, Nino che si unisce ai partigiani. Alla fine della guerra, Giuseppe inizia a mostrare i primi segni dell'epilessia. Insomma, questo naturalmente è un romanzo doloroso, drammatico, dal quale vi ricordo era stato tratto anche un film nell'86 diretto da Luigi Comencini con Claudia Cardinale nel ruolo di Ida. Beh, sicuramente la storia di Elsa Morante è un libro da leggere. Date un po' un'occhiata se nella libreria di casa compare da qualche parte. Gli scrittori contemporanei, regina indiscussa dei romanzi storici è l'americana, ormai inglese d'adozione, Tracy Chevalier. Il suo bestseller La ragazza con l'orecchino di perla era ambientato infatti nell'Olanda del 600, raccontava la storia di una serva che aveva ispirato un celebre quadro del pittore Vermeer. L'ultimo romanzo si intitola invece La ricamatrice di Winchester, pubblicato in Italia da Neri Pozza con la traduzione di Massimo Ortelio. Siamo nella Gran Bretagna del 1932. Violet, 38 anni, ha lasciato la casa di sua madre e si è trasferita a Winchester per cercare, diciamo, una vita indipendente. Lei visita spesso la cattedrale di Winchester non perché sia particolarmente religiosa, ma perché quel posto la rende più serena. Qui scopre che c'è una congregazione di donne che ricamano i cuscini da preghiera. E diciamo che attraverso il ricamo, il suo lavoro anche da dattilografa, Violet cercherà il suo riscatto e la sua indipendenza. Dunque Violet è un personaggio di fantasia, che si muove però su uno sfondo storico ben preciso, come spiega Tracy Chevalier con la traduzione di Sara Cuminetti. Yes, the group really existed and sì, effettivamente l'associazione delle ricamatrici esisteva veramente e mi interessava molto appunto scoprire di più di questa associazione, capire che cosa facevano, capire perché lo facevano, anche perché questi cuscini ci sono ancora e la gente ancora a Winchester si inginocchia e si siede su questi cuscini ricamati, e quindi volevo assolutamente capire perché questo progetto aveva avuto inizio, che cosa diciamo ne ricavavano loro da questa esperienza del ricamo e che come si faceva questo ricamo soprattutto. What they got from that experience and what it was like to actually embroider something like that. E che cosa Violet ricava invece dall'esperienza del ricamo? Perché lei decide di entrare in questa congregazione di ricamatrici con un obiettivo ben preciso. Well, there are two things she gets from it. She has moved from. Ci sono due aspetti che interessano molto a Violet. Prima di tutto, Violet si è appena trasferita da casa sua, si è trasferita a Winchester e non conosce nessuno a Winchester. Quindi il fatto di unirsi a questa associazione di donne le permette di trovare del sostegno, ovviamente, ma anche delle amiche. E questo per lei è molto importante. E poi, in secondo luogo, Violet è determinata a lasciare il segno sulla cattedrale, esattamente come per centinaia di anni hanno fatto tanti uomini che con la loro arte hanno decorato la cattedrale. Beh, anche Violet vuole con il suo cuscino vuole lasciare il suo segno sulla cattedrale di Winchester. Ora una breve pausa e poi continueremo con i consigli di lettura. Aiutiamo Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Bergamo ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con i suoi medici e tutto il suo personale, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag Sole per Ospedale Bergamo. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Il cacciatore di libri. Riprendiamo questa puntata speciale del cacciatore di libri dedicata ai consigli di lettura, molto richiesti in questo periodo in cui siamo costretti a casa, tanto che sul web si sono moltiplicate le iniziative. Per esempio sui social del Festival Pordenone Legge si trovano i consigli di alcuni scrittori, così come sui social del Maggio dei Libri, iniziativa organizzata ogni anno dal Centro per il Libro e la Lettura. In questo periodo è nata anche su Instagram l'iniziativa SOS Lettura.

Tutto comincia con una donna che Guido Guerrieri aveva conosciuto 27 anni prima, con la quale aveva avuto una storia di passione, di stordimento, di quelle che capitano quando sei un ragazzo e ti capitano ancora di più se quella che incontri è una donna molto affascinante e anche più grande di te. E questa donna riappare nello studio di Guido Guerrieri e la vita non è stata clemente con lei. Tutte le promesse che sembrava proporre alla vita e al futuro sembrano infrante, e soprattutto c'è un figlio adulto detenuto perché è accusato e già condannato in primo grado per un omicidio. Però il tema dei ricordi, della memoria, anche un po' della malinconia sono temi spesso presenti nei tuoi romanzi. Adesso penso per esempio al penultimo romanzo, alla versione di Fenoglio. Anche lì Fenoglio è un personaggio molto malinconico e anche lui rifletteva un po' sul passare del tempo. Quindi inizio insomma a intuire ormai, dopo tanti romanzi tuoi che leggo, che questa è una cifra che ti appartiene. Sì, mi piace molto il fatto di stare su quel crinale in cui si combinano la nostalgia, a volte appunto la malinconia, ma poi contemporaneamente o quasi, o comunque con un passaggio rapidissimo, una dimensione di sorriso, di dissacrante, ma non in maniera distruttiva. Appunto la pratica dell'ironia e dell'autoironia è un pezzo fondamentale della cifra stilistica di Guerrieri, e in generale è una cosa che a me piace molto nelle persone. Mi piace incontrare persone che sono capaci di cogliere la delicatezza dei sentimenti, dei propri e degli altri, ma che non trascorrono tutto il tempo a osservare questi sentimenti e a macerarsi nella tristezza che possono generare. Mi piacciono le contraddizioni, ecco. Dicevamo, i romanzi di Sandro Veronesi e Gianrico Carofiglio sono fra i 12 candidati al premio Strega 2020. Vi ricordo velocemente gli altri: La nuova stagione di Silvia Ballestra, Bompiani; Città sommersa, Marta Barone, Bompiani; Febbre di Jonathan Bazzi, Fandango Libri; Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, Feltrinelli; Giovanissimi di Alessio Forgione, NN Editore. A questo proposito vi ricordo che trovate l'intervista a quest'autore su questo libro in podcast su Radio 24.it. E poi c'è ancora Breve storia del mio silenzio di Giuseppe Lupo, Marsilio; Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli, Mondadori; Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi; Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, di Remo Rapino, di Minimum Fax; infine L'apprendista di Gianmario Villalta, pubblicato da SEM. E vi segnalo anche che a partire da martedì 24 marzo con Il Sole 24 Ore saranno in vendita ogni settimana alcuni dei libri che hanno vinto lo Strega negli anni scorsi, in particolar modo dal 2012 al 2018. I volumi saranno venduti in abbinata non obbligatoria al quotidiano a €12,90, usciranno ogni settimana e resteranno in edicola per un mese. Prima uscita, quindi martedì prossimo, Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi di Alessandro Piperno, Mondadori. Visto che abbiamo parlato di Premio Strega, fra i romanzi che magari abbiamo già nelle nostre librerie e non abbiamo ancora letto, potrebbero esserci quelli che hanno vinto in passato. Penso per esempio a Rinascimento privato, scritto da Maria Bellonci, che vinse il Premio Strega nel 1986. Questo libro è un'autobiografia immaginaria di Isabella d'Este a Mantova. Diciamo che ricostruisce un po' gli anni più importanti del Rinascimento italiano attraverso un punto di vista, diciamo, interno alla corte del Ducato di Mantova. Sostanzialmente una donna, Maria Bellonci, racconta una delle donne più determinate e colte del Rinascimento italiano. Quindi magari questa potrebbe essere l'occasione giusta per leggere Rinascimento privato di Maria Bellonci, che vinse lo Strega nell'86. Altro romanzo che invece vinse lo Strega nel 1960 e che potremmo avere nelle nostre librerie, magari non l'abbiamo ancora letto, è La ragazza di Bube di Carlo Cassola. Qui siamo nel secondo dopoguerra, si raccontano le vicende di due giovani, Mara, 16 anni, figlia di un comunista militante, e Arturo, detto appunto Bube. Bube è costretto a scappare perché è accusato di un delitto, Mara decide di andare con lui, di accompagnarlo a Volterra, poi però lui dovrà comunque fuggire fuggire da solo in Francia. Insomma, ci sono una serie di vicissitudini. Durante questa lontananza Mara riceverà le attenzioni di un altro ragazzo, però diciamo che il legame con Bube sembra essere più forte di qualunque tentazione. Se ce l'avete nelle vostre librerie, magari è l'occasione per leggere o rileggere La ragazza di Bube di Carlo Cassola. E torniamo ora agli autori contemporanei, con Sara Rattaro, autrice di La giusta distanza di Sperling e Kupfer. Esiste una giusta distanza che un uomo e una donna devono mantenere per far andare avanti il matrimonio? O più in generale, esiste una distanza che gli esseri umani devono avere in tutte le loro relazioni? Intorno a queste domande è costruito appunto l'ultimo romanzo della Rattaro, La giusta distanza, che racconta la storia di Aurora e Luca, una relazione che dura da 20 anni, con alti e bassi, insomma vicinanze e allontanamenti. Anche in questo caso siamo in un momento in cui parliamo di distanze fisiche, ma in questo caso, ovviamente, lo sottolineiamo, parliamo di distanze emotive e sentimentali. E allora la parola va a Sara Rattaro. Quello che volevo raccontare è l'educazione sentimentale, che è qualcosa che credo che la mia generazione manchi, ma probabilmente manca a tutte le generazioni, ma noi siamo una generazione che si è esposta di più, è stata esposta di più. Io li chiamo, siamo i diseducati sentimentali, perché mi ricordo che anche nella mia famiglia, che è un po' la famiglia del Mulino Bianco, no? Quindi insomma, i miei genitori hanno superato i 50 anni di matrimonio, ma quando noi ci sedevamo intorno alla tavola, che era un po' il rito di famiglia, di fatto si parlava molto, ma non si parlava mai di sentimenti, si parlava d'altro, si parlava di quello che succedeva nel mondo. C'è un certo pudore. Molto, molto pudore. Ma questo grandissimo pudore così educato in realtà ha mandato nel mondo dei figli diseducati sentimentalmente. Quindi noi, di fronte ai grandi dolori o alle grandi emozioni della vita, siamo un po' sprovveduti e facciamo dei danni, facciamo dei disastri, no? Io una cosa che penso è che se io entrassi in una casa di qualcuno e rompessi qualcosa di valore o sentimentale o economico, mi prostrerei di scuse, tenterei di rincollare pezzi, farei di tutto per salvare, mi vergognerei da morire. Se entri in casa di qualcuno e gli spezzi il cuore, questa cosa non accade. Non chiediamo scusa. Non chiediamo scusa, raramente chiediamo scusa, anzi di solito navighiamo in un tentativo di cercare di non essere beccati, cercare di sottrarci, no? Di scappare, di non essere visti. E questo fa parte del nostro DNA generazionale, no? Ma così erano forse così anche i nostri genitori. Ma i nostri genitori non si sono esposti in tutto questo, perché davvero i loro matrimoni in qualche modo ai 50 anni ci sono arrivati. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi abbiamo dato un po' di consigli di lettura, fra libri che magari abbiamo già nelle nostre librerie e libri invece più recenti, che, lo ribadiamo ancora una volta, possono essere comprati online. In alcune città ci sono appunto anche le consegne a domicilio di alcune librerie, e poi vi abbiamo un po' dato l'idea anche di creare una sorta di biblioteca condominiale, un book crossing condominiale. Potete mettere appunto i volumi nel portone del palazzo, magari fuori dalla porta di casa, mettere un cartello e ci si scambia un po' con i vicini i libri, senza venire naturalmente in contatto l'uno con l'altro. Vi ricordo anche che il Cacciatore di Libri è presente sui social, c'è la pagina ufficiale su Facebook, il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. Siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.